fa i gargarismi, che fa bene. No, è tutta una roba elettronica di sperimentazione sonora, insomma. Vogliamo fare un po' la radio di ricerca o no? Sì, sì, anche no, certo. Allora spengo, aspetta. Chiedo asilo. Benvenuti a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. K. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo perché... Ma quale pubblicità? Poi ti spiego, Drago. Pubblicità, no, grazie. Ma cosa dici? Non è che basta dire pubblicità, grazie, parte la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nessuno compra spazi pubblicitari all'interno di Chiedo Asilo, ahimè. No, Drago, mi scappa. Ma di nuovo? E cosa ti devo dire? Ma... Mica mi posso programmare, no? Se mi scappa... Però, scusa, si tratta di nemmeno un quarto d'ora, potrei anche resistere, cosa devo dire? No, ci provo, se vuoi, ma non è giusto. Come non è giusto? Ma scusa, Lily Gruber va sempre in pubblicità, ho capito, no? Dice adesso andiamo in pubblicità, si mette di fianco un po' così, tutta strana, con la bocca tutto il canotto, e al nostro ritorno approfondiremo la questione con, che ne so, Beppe Severgnini, no? Manda è tutto pubblicità. Un codice per dire adesso andiamo un attimo in bagno, che non ce la faccio più. Vabbè, può anche darsi che qualche volta la Lilli ne approfitti per andare a fare due fax in bagno, però due fax mica è detto, cioè lì la pubblicità c'è davvero, cioè, sì, fanno vabbè, tutti a gara a fare la pubblicità durante il programma della Gruber, fanno tutti della Gruber. Gruber, come si dice? Non lo so, ma beh, per comodità. Comunque fanno tutti a gara ad andare in pubblicità con Lily Gruber, a comprare gli spazi pubblicitari all'interno del programma. Ma allora perché Lily Gruber dice andiamo in pubblicità e poi torniamo con Beppe Severgnini? Quando dice così, significa che in bagno ci vanno insieme lei e Severgnini, ma capito? Come? Vabbè, in due bagni diversi, vabbè, spero. Ma certo, no? Divisi dalla parete, aperti in alto, quelli lì. Tipo autogrill. Sì, con le scrittine, i numeri di telefono, esatto. Tutto. Severgnini in un cesso e la Gruber nell'altro. E cosa no? fanno? Ho capito. Poi tipo Severgnini cerca di montare su con due piedi sulla vaschetta. Ma per far che? Ma come per far che? Dai, indovina. Cioè, spiare la Gruber che fa la pubblicità? No, che manda i fax. No, guarda, ma sì, infatti, mai sentito tante cazzate in una botta sola. Ma sono argomenti che fanno salire lo share radiofonico, che tra l'altro non esiste. Ma sì che esiste, Audi Radio esiste, anche se non esiste. Esiste quello clandestino, quante volte te lo devo dire? Vabbè, comunque, regia, andiamo un attimo in pubblicità. Ma quale pubblicità? Cosa dite? Dai, che Drago, devo mandare sti fax! And now a word from our sponsors. Vostro figlio deve entrare in polizia ma ha un brutto vizio. Dovete rinnovare la patente ma avete un brutto vizio. Vostro padre vi controlla da vicino perché avete un brutto vizio. Avete un brutto vizio ma volete far credere che non avete alcun brutto vizio? La risposta è Pissiolindo. 30.000 donatori sani in tutta Europa. Equip medica specializzata. Pratico contenitore in PVC. Pissiolindo è urina di bambino garantita pulita. Nessuno potrà più contestarvi di avere quel brutto vizio. E non dimenticate che Pissiolindo è anche una dissetante bevanda in caso di sciopero della fame e della sete. Ah. Pissiolindo. Sara, sono Lorenzo. Ti ricordi? Senti, mi passi papà per favore? Il micio? Come fa il micio? Miau miau! Come fa il grillo? Ma il grillo fa cri-cri, lo sai, no? Tu adesso passami papà! Come fa la pecora? La pecora fa bene? Ma non li conosco tutti! Da anni ormai Salina era dominata dai figli unici. Ogni famiglia... Pio pio! Il pulcino fa pio pio! Ogni famiglia aveva un figlio. Un figlio solamente, a cui veniva affidato il comando della situazione. Il comando della situazione. E ora bambini, ricreazione! I bambini tiranno, parliamo. Ma ancora! Lo so, ne abbiamo già parlato, però l'argomento è sempre d'attualità, perché ogni tanto sui giornali esce un articolo di costume sui bambini maleducati e fuori controllo, e ormai è una specie di fenomeno che rischia di venire percepito come normale. Cioè, sembra normale che un bambino risponda malamente al padre che gli fa un appunto. Ma è certo, ma è normale, cioè, no? Sì, sembra normale che un bambino faccia i capricci, elabori complicatissime scene isteriche e crisi di iperventilazione per ottenere un giocattolo che i genitori semplicemente non gli vogliono comprare. E vabbè, cosa dovrebbe fare il bambino? È normale vedere padri ultra trentenni, ultra quarantenni non poter far nulla contro mostri sangue del proprio sangue che spadroneggiano nelle loro vite. Ebbene, signori all'ascolto, bambini all'ascolto, tutto ciò non è normale. No, Drago, ti sembrerà strano, ma è assolutamente normale. Ma basta ricordarsi ogni tanto che i piccoli tiranni non hanno alcun potere, perché innanzitutto fisicamente sono troppo deboli, quindi se si fa la lotta perdono, no? E psicologicamente sono molto ma molto inferiori ai genitori, quindi voi siete più forti, essendo più forti non potete soccombere, è una legge di natura. Guarda, bambino Alberto, ecco, tu è tutto ta, è tutto ta. Bambino Alberto, niente, tu sei un bambino tiranno o no? In che senso? Come, in che senso? Sono i bambini tiranni, cosa vuol dire? Cioè, sono i bambini prepotenti, no? Quelli che riescono a ottenere tutto quello che vogliono dai genitori facendo casino, capricci. Ah, tiranni. Una serie, cioè, sono dei bambini evoluti. Ma che evoluti? Ma bambino Alberto, sono bambini, anzi, che con urla, pianti e capricci sottomettono i poveri genitori. E poi diventano i padroni della famiglia, capito? Sì, tiranni. Decidono loro cosa si guarda in TV. Vabbè, certo. E decidono loro quando si finisce di mangiare a tavola e quando alzarsi, eccetera. E decidono loro come si passa la domenica, cioè dei veri dittatori, appunto, capito? Ma scusa, ma tu ne parli come fosse un fatto negativo? Appunto, come appunto? Ma no, ma questi sono bambini che hanno visto la luce, no? Allora, cioè, voglio fare il tiranno anch'io. Vabbè, te l'ho detto. Non è che c'è una guida o un libretto di istruzione per vedere come si fa? No, caro bambino Alberto, va dove ti porta il cuore! Sì, vabbè, comunque, guarda, i tiranni si diventa entro i primi 3 anni di vita. Ma che ne sai? Sono tutte storie vere che gli scienziati pubblicano. Puoi cominciare anche dopo, ma che scienziati? Il bambino Alberto ormai è fuori gioco, se non sei già un tiranno adesso c'è poco da fare. Ma scusate, sempre sottomesso, mi dispiace. Io non capisco, non basta adottare le loro strategie? Sì. Il gioco è fatto. Ma certo. Se ho capito bene, basta urlare a squarciagola, no? O frignare per delle ore, basta esagerare. Sì. E poi si ottiene il risultato. Sì. Cioè, a me non sembra così difficile, no? Cioè, dai, facciamo una prova, no? Però forse ha ragione Drago, cioè dipende tutto dalla reazione dei tuoi genitori. Ma certo, se li hai abituati male o bene. Bambino Alberto, scusa, tu avrai urlato, pianto per ottenere qualcosa, beh, no? Sì. E che risultato hai avuto? Beh, in effetti, cioè, dipende da loro. Vedete. Dipende da come si alzano la mattina. Sì. Allora, di solito, nei giorni buoni, se urlo, frigno, mi mettono scoggio da pacchi in bocca e mi chiudono l'impostiglia. E va. E quando va come bene? Va? Quando va male? Lì, allora è seria. Perché mi mandano su dal vecchio dell'ultimo piano ad accudirlo, no? Ma come? Tu accudisci un anziano? Sì, cioè li porto da mangiare, accendo la TV, li faccio provare la febbre. Vabbè, perché lui è da solo. Sì, però niente di sgradevole, insomma. Beh, aiuti una persona anziana, è una buona cosa. Tu non fai neanche gli scout, quelle robe lì. E poi gli anziani sono saggi, quello sa quante cose ti racconta, quante cose ti ma insegna. Ma cosa racconta? Il vecchio non parla quasi mai. Apre la bocca solo per rompere. Sì. Non è che sia una cosa tanto piacevole, eh? Vabbè, ma cosa devi fare? Gli infatti metti il termometro sotto l'ascella e poi gli leggerai la temperatura, lui non ci vede, quindi deve 36,8, 36. Magari. No, intanto il termometro devo metterglielo io. Vabbè. E non sotto l'ascella. E neanche in bocca. Ecco, oddio. Vabbè, abbiamo capito. Siccome deve essere tenuto sotto strettissimo controllo, il luogo più affidabile dove inserire il termometro per rilevare la temperatura. Devo continuare. No, abbiamo capito, però lì è solo una questione di sottrarre, se vai un grado, due, vabbè. Piacere, dai. E comunque, in ogni caso, come vedete, i miei non me l'hanno mai vinta. Neanche se strillo come un indemoniato. Però, magari, siccome magari è solo una questione di interpretazione, di frequenze audio, no? Di volume. E poi potrei essere più efficace, voi mi date qualche consiglio. Perché lì è questione solo di audio, no? Ti urli e loro dicono: ma Dio, ma cosa stiamo dicendo? Ma infatti, ma poi guarda che è tutta colpa dei genitori. Tu sei cresciuto con dei genitori bravissimi che non ti hanno abituato a ottenere tutto quello che vuoi semplicemente battendo i piedi. Infatti. Perché se no, guarda che poi ne approfitti. Sì, però lui deve continuare a farlo, anche se loro non capito. È perché è nella sua natura. No, però come la storia dello scorpione. Ma scusate, noi i genitori bravi. Moderni anche. Ma se quando uno mi chiudono l'impostiglio, cosa c'è di moderno? Poi è stato provato che i bambini tiranno o bambini tiranni sono molto infelici, crescono malissimo, poi tristi, depressi. Infelici. E qui fanno quello che vogliono e sono infelici. Infelici perché la totale assenza di regole destabilizza i bambini, non stanno bene. Così. Esatto, quindi diventano nervosi, insoddisfatti, va bene. Perché io invece sono sempre sereno e soddisfatto. Fatemi fare il tiranno, no? Poi vediamo chi si destabilizza. Io e i miei genitori. Ma voi vi rendete conto? Un urlo e divento padrone del telecomando, no? Una caragnata e mangio tutto quello che voglio. Una pestata di piedi mi faccio portare a Euro Disney. Cioè, ma non scherziamo, dai, devi tiranno tutta la vita. Please pass the milk, please. Please pass. pass the milk, please. Please pass the milk, please. Chiedo asilo. Bello, come si fa a rispondere? Ma basta! Asilo è tradio24.it.